Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, eclettiche, eclettici. Benvenuti anche oggi fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM per Eclettica. A darvi il benvenuto è Giulio Caperdoni. Giulio Caperdoni che risponde all'indirizzo di mail giulio@rockfm.com e che vi aspetta anche su myspace.com/eclettica. Il volantino azzurro stabiliva la partenza dal grande raccordo verso le 9 di sera. Ma l'appuntamento un'ora prima, nella valletta incastrata al centro dello svincolo per l'autostrada del sole, direzione nord. Molte macchine dei maratoneti sono parcheggiate lungo le corsie d'emergenza e il sole calante accende gli smalti polverosi delle fiancate. Brucia negli occhi che cercano ovunque il tavolo dell'iscrizione. Questo era l'incipit di Crampi di Marco Lodoli. Back there and get shot. It's not gonna happen, Doc. After you fix the time circuits and put new tires on the DeLorean, I'm going back to 1885 and I'm bringing you home. Ivana XL, Ivana Extra Large, l'artista newyorkese che ha aperto quest'oggi Eclettica, una cover di un brano che era stato reso famoso in quanto tema di un film di James Bond interpretato originariamente da Carly Simon e dal titolo Nobody Does It Better. Poi siamo rimasti a New York City ad ascoltare The Ghost Station, The Ghost Station che ormai da tempo, da lungo tempo, sono protagonisti delle playlist di Eclettica con All Together Now. Ed ora invece è la volta di PJ Harvey, però con un estratto diverso da White Chalk, il suo ultimo album diverso rispetto a quello già trasmesso nelle settimane passate. Si tratta di The Piano. Rispettosamente, la sorte ha riversato su di me un aspetto e uno stile assai migliori di ciò che in realtà io sono, o mi sembra di essere. Aspetto e stile, niente altro. È come se fossi costretto a viaggiare su un treno scalcinato con un biglietto di prima classe. E quel biglietto mi impedisse di sentirmi in compagnia, almeno di gente simile a me, gente che distende le gambe sui sedili e si offre il vino dai fiaschi, parlando dei propri guai tra una stazioncina e l'altra. Questo era l'incipit de I Fannulloni di Marco Lodoli. Run, running right over the edge. Had a gout complex, poison pen, sign in his poison pen. She's signing her name and she's forgetting her friends. Had a girl complex, break her neck, and now she worry, worry, worries for the good of her well. Let's go complex, useless effect. Now she suffers, suffers, suffers, destroying herself. Haven't you ever seen a Western? Yeah, I have, Doc. And Clint Eastwood never wore anything like this. Clint who? That's right. You haven't heard of him yet. So Sono tornati Cancel the Astronauts con la già ascoltata I'm the President of Your Fan Club and Last Night I Followed You Home. Prima ancora gli scozzesi Sons and Daughters con il loro nuovo singolo Guilt Complex. Tutto questo in eclettica che si sta avviando tra qualche minuto la chiusura della sua prima parte, che poi proseguirà fino alle ore 20. Ora è la volta di un'artista australiana, lei si chiama Sia, da più di tre anni che non pubblicava un album registrato in studio. Il disco è ora disponibile solo in download digitale, sarà disponibile nei negozi dal mese di gennaio 2008, si intitola Some People Have Real Problems e questa è Electric Bird. This path, you play the victim perfectly, holding. to do is drive the time vehicle directly toward that screen, accelerating 88 miles an hour. Wait a minute, Doc. If I drive straight towards the screen, I'm going to crash into those Indians. Marty, you're not thinking fourth dimensionally. They'll instantly be transported to 1885, and those Indians won't even be there. Right. Float with me into the mouth of the Columbia. Float. Into the mouth of the Columbia.